Cara biblioteca, tu sei per me un'amica. Mi fai pensare, vagare nei miei pensieri e se voglio riscaldarmi la mente, io vengo da te per leggere, osservare e salutare le gentili signore che con la gente sono disponibili e che non sanno cos'è la rabbia. E poi sei anche bella perché sei colorata con colori fiabeschi e sei anche l'amica degli animali volanti appesi al cielo del tuo soffitto. Sono farfalle, uccelli, pappagalli e rane incoronate e gufi. Lo sai che una volta ti potevo vedere sempre perché mi eri vicina e non mi lasciavi mai? Abitavo davanti a te. Ora invece sono più lontana, ma ti vengo a trovare ugualmente come si va a trovare una persona che per te è cara. Tu l'altro giorno mi hai mandato una lettera e io con questa ti rispondo. Ciao, non vedo l'ora di rincontrarti. Con affetto, Alice.